la festa. Scusi, dov'è il DJ? Là? Ci devo chiedere una cosa. Umberto. Umberto. Umberto. Umberto. Umberto. Umberto. Umberto. Umberto. Umberto. Umberto. Umberto. Umberto. Umberto. DJ. Oh, DJ. Oh, DJ. Oh, DJ. Oh, DJ. Metti il disco. Umberto. Umberto. Umberto. Umberto. Umberto. Umberto. Umberto. Umberto. Umberto. Umberto. Umberto. Umberto. Umberto. Umberto. Umberto. DJ, la canzone di Umberto fa na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Umberto. Mi sa che mi è salita la pasta. Mi sa che meglio che vada a casa.